Mi raccomando però, non oltre la terza elementare. Non ti preoccupare papà, mi faccio cacciare da tutte le... Ha ha ha ha, Terror Rebel Sound Man, Fretter, sindo come me. Questa è la storia, di Rita L.S. nella memoria, basta una S, piccola S, se ne ve che la golf sprechan, da cara che si fina della precedenza, invece pensa che ha comman. Dall'Italia dalle seconde gira, cacina sbria che non te mette la guida. Cina se fermo stop, so problemi ci nuvida. Via che sparano a te, tu sei piccata rida. Non da pagare una pila, cina te mette sotto. Capo già per sei da cara carta da botto. Ma raccomando a te, cuda cata a panza. La messa per in gamba, da ci la denunzia. Poi c'è so viva buna, come funziona il sud. Ci passa da nanda, se fai sfide da nude. E non a capa sotto, ma te cuda cuda. Italia, vivi da nero. Quando la birra ma scritto per una, attacco quando a Napoli ci vuole una canzone. Ride scena tutta duce ma la stessa scuola. La canna di bambù viro maro viro sola. Solita che ci passa che te dessa attenzione. Attenzione, attenzione, oh. Il canto del paese che appartiene al ragazzone, con il diminutivo per fare il simpaticone. Anche se poi di piccolo c'ha solo una cosa, ma non lo dice mica, c'ho le femmine iosa. Quando passo nel quartiere tu apri gli occhi, prima cosa è rispetto, sono qua e se mi tocchi. Buona buona l'Italia sarà meglio. Mettimo ballo russo che cartuno spavinda. Pecciate nella faccia come un mostro The Loch Ness. La vede tanta grande che tu dici che è una botte. Yes, è pure yes. La verità che yes. E ci ne deve uno spiccia che per ne sciarris. Ci ne deve pesce yes. Che tocca sto guagnone non so carri se le kiss. Italia se vivini da nero. Hanno uno faccia tutto fess. Chi vuole sapere a quando ava fornesce. Ormai è troppo team che su pesce a Agua Nava Fornesce. Little S, vivini da nero. Hanno uno faccia tutto fess. Chi vuole sapere Agua Nava Fornesce. Ormai è troppo team che su pesce a fodesce. Agua Nava Fornesce. Agua Nava Fornesce, tu dica boh. Agua Nava Fornesce, tu dica già da boh. Agua Nava Fornesce, è festa si vanne. Agua Nava Fornesce, che mezza na da vanne. Agua Nava Fornesce, tu dica boh. E tu dica già da mo. Quando va per nesce e festa si vanna. Quando va per nesce a mezzana da vanna. Little S, vivini da ghiero. Hanno uno faccia tutto fess. Chi vuole sapere a quando ava per nesce. Ormai è troppo team che su pesce a fodesce. A quando ava per nesce. Uffra.